Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Dopo un paio di settimane dalle elezioni tedesche, dall'importante discorso del presidente Macron sull'Europa, quest'ultima ha imboccato una nuova strada, ce lo chiediamo in tanti, e riconoscendo che questo è un momento decisivo per il processo di integrazione europea, un processo al quale adesso toccherà dare un contributo importante all'Italia, che l'anno prossimo voterà e che il cui voto potrebbe essere determinante per questo fine. Sulla crisi e le prospettive dell'Europa interviene un politologo, Maurizio Cotta, che pubblica col Mulino un agile volumetto intitolato Un'altra Europa è possibile, che ha il pregio di fare capire bene i temi della situazione attuale, ma anche di indicare alcune possibili vie di uscita. Il libro è pubblicato al Mulino, 134 pagine, 12 euro. Si parte dalla Brexit, che l'autore considera un azzardo politico e una decisione inattesa, la quale ha fatto da detonatore a una crisi che minava da tempo la popolarità, una volta per la verità molto alta, del progetto europeo. E Cotta poi esamina le ragioni di questo appannamento dell'entusiasmo per l'Europa e conclude indicando un sentiero stretto, così lo chiama, per riprendere il cammino, un sentiero che dovrebbe portare all'identificazione di un demos, come lo chiama lui, europeo, cioè di un'appartenenza comune a un progetto, e dovrebbe anche definire meglio il rapporto tra questo demos e la leadership europea, per fare riacquistare a quest'ultima una maggiore responsabilità e anche rappresentanza. E nel libro troveremo proposte concrete, per esempio lo sviluppo di politiche sociali europee che implicano tutti, conclude l'autore, coraggio e visione, da manifestare anche con passi piccoli ma significativi che potrebbero già essere intrapresi dalla Commissione. Su questo adesso sentiamo l'autore. Buonasera a Maurizio Cotta. Buonasera, dottor Carrubba. Maurizio Cotta, lei scrive a proposito della Brexit, parla delle ragioni che hanno spinto gli inglesi a votare per l'uscita e sottolinea come non c'è soltanto la motivazione economica, cioè il calcolo, scrive, dell'utilità materiale, che è un motivo potente nel guidare le scelte degli elettori, ma non è l'unico. Ci sono altri fattori, l'identità, i sentimenti di appartenenza a una comunità politica, eccetera. Ecco, come mai questa sorpresa? Come mai non si era tenuto conto dell'importanza di questi fattori nella formazione anche dell'opinione pubblica europea? Ma io credo che ci sia qualche volta un po' una sorta di pregiudizio non sempre cosciente, per cui pensiamo che i fattori economici siano dominanti. Effettivamente siamo passati attraverso un periodo di crisi economica, cui gli elementi economici hanno avuto un enorme impatto, però non bastano per capire i comportamenti politici delle persone. E credo che dobbiamo prestare attenzione al fatto che in una situazione come quella europea, in cui, diciamo così, si mescolano identità e sovranità nazionali con anche elementi di una sovranità sovranazionale, questi elementi identitari giocano un ruolo molto importante che non dobbiamo mai sottovalutare. Ma per venire al peso e all'autorevolezza, diciamo pure, dell'Europa e dell'idea d'Europa, secondo lei gli inglesi hanno capito che cosa hanno veramente scelto decidendo di abbandonare l'Unione Europea? E soprattutto quei movimenti che si ispirano ad analoghe ragioni, ad analoghe motivazioni in Europa, sono consapevoli del fatto che magari in Inghilterra, in Gran Bretagna, serpeggia un po' di pentimento per quello che è stato votato più di un anno fa? Ma io credo che succeda anche in altre situazioni, è un fatto abbastanza normale, cioè che si vedono molto bene gli svantaggi, i problemi, le difficoltà della situazione presente, ma è molto più difficile immaginare in maniera precisa le conseguenze di certe azioni. Quindi la parte dell'elettorato, dell'opinione pubblica, reagisce molto rapidamente anche a situazioni di disagio che in questa fase sono state molto significative, dobbiamo dirlo, e immagina che le soluzioni siano facili a portata di mano. E c'è un po' questa idea che permane, che insomma la sovranità nazionale, l'identità nazionale sono la risposta a una integrazione che non si è rivelata molto efficiente, che ha molti difetti, eccetera, eccetera. E però credo che non si capisca bene cosa vuol dire ritornare in questa situazione in cui siamo oggi in Europa a delle sovranità nazionali pure. Ecco, questo credo che manchi molto fortemente. E i fautori di Brexit, Frexit, di qualsiasi uscita dall'Unione, sono molto bravi nel identificare i difetti dell'Unione, che ci sono, come ripeto, ma sono molto meno precisi nell'indicare cosa succederebbe uscendo fuori, quali sarebbero le condizioni, i problemi, i costi, eccetera, eccetera. Ecco, questo mi pare sia, ahimè, un po' la situazione che si ripete in vari paesi. Una situazione che lei fotografa con un paradosso. L'Europa, lei scrive, è presa tra tre crisi, la prima delle quali è quella economica, e dinanzi a questa crisi l'Europa ha dimostrato di essere troppo integrata per potersi permettere delle risposte a livello nazionale e troppo poco integrata per rispondere collettivamente come Europa, per l'appunto. Ecco, da questo paradosso si può uscire? Ma sì, certo, secondo me questa è un po' la situazione. Siamo, come potremmo dire, un po' a metà di un guado. Quando si è a metà di un guado è molto facile scivolare su sassi, appunto, scivolosi e finire in acqua e finir male. E quando si è a metà del guado o si torna indietro, ma qui entriamo in problemi che non sapremo veramente affrontare, o si cerca di fare un passo avanti per saltare sulla riva. Io credo che oggi la situazione d'Europa sia un po' questa. Stare in questa situazione intermedia in cui l'integrazione ha fatto dei passi avanti molto forti in vari settori, con conseguenze positive, ma alcune anche, diciamo, problematiche, restrizioni, vincoli molto forti. E restare in questa situazione senza andare oltre è, secondo me, pericoloso, perché genera tensioni, come vediamo in questi anni. Quindi la strada, secondo me, non diciamo utopiste, ma realistiche, di fare dei passi avanti concreti verso una migliore integrazione. Nonostante rimangano aspetti di crisi molto forti, come quello che lei ricorda e di cui parla nel suo libro, che è quella dell'immigrazione. Eh beh, certo, no, noi siamo, ora forse ci cogliamo un po' nell'idea che siamo usciti completamente dalla crisi economica. Io anche su questo sarei un po' più prudente, perché varie conseguenze della crisi economica ci sono ancora prima di uscirne completamente, ma certamente la crisi dell'immigrazione è qualcosa che resta presente e che possiamo immaginare che in futuro continuerà a essere presente. Forse più che di una crisi è una condizione strutturale in cui il problema dell'immigrazione resterà all'ordine del giorno. E qui, diciamo, siamo ben lungi da aver risolto i problemi, soprattutto ben lungi dall'aver messo in atto o aver creato degli strumenti per gestire questo problema. Forse l'abbiamo tamponato, forse con qualche accordo con delle tribù libiche, con la guardia costiera libica abbiamo rallentato questo fenomeno, però diciamo siamo lungi. E soprattutto questo tema, che è un tema molto sensibile perché tocca le sensibilità della gente comune molto, anche in maniera molto emotiva, e non siamo riusciti, diciamo, a raggiungere un comune sentire europeo che ci consenta di bilanciare i costi, di sopportare in maniera i pesi di questa crisi in maniera solidale. Ecco, qui siamo molto indietro. Dopo il voto tedesco, lei scriverebbe una postfazione a questo libro e che cosa aggiungerebbe? Beh, io aggiungerei che il libro era stato pensato soprattutto dopo la Brexit, eccetera. Io aggiungerei che dobbiamo continuare a essere molto attenti alla situazione. Il voto tedesco ha mostrato che anche nella Germania, cioè il paese è uscito meglio dalla crisi economica, quindi un paese forte, beh, anche lì ci sono delle tensioni latenti non irrilevanti. E quindi io continuerei a dire che la risposta è quella di non lasciare completamente alla politica nazionale la gestione di questi problemi, perché le politiche nazionali rivelano molte incapacità nel gestirli fino in fondo. E quindi anche dopo le elezioni tedesche la strada di una visione europea, di politiche europee più adeguata a questi problemi rimane necessaria, anzi forse confermata ulteriormente. Grazie a Maurizio Cotta, autore di Un'altra Europa è possibile. Buona serata. E buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Uno spettro che si agita per l'Europa è quello che era stato sconfitto in Francia, ma che si è poi materializzato in Germania con il successo dell'estrema destra, cioè parlo dei populisti, sul quale interviene Tito Boeri, economista, presidente dell'INPS, con il libro Populismo e Stato Sociale, un volumetto che riprende un intervento dello stesso Boeri a Biennale Democrazia, pubblicato dalla Terza, 50 pagine, 9 euro. Questo è un volume smilzo, come avete sentito, ma interessante perché cerca di mettere a fuoco appunto questo fenomeno, il fenomeno del populismo rappresentato da partiti, scrive l'autore, che offrono un messaggio semplice quanto pericoloso: interrompere il processo di integrazione europea e chiudere le frontiere agli immigrati per meglio proteggere le persone più vulnerabili dalle sfide della globalizzazione. Secondo Boeri questa sarebbe una ricetta e una strada miope e di breve respiro, soprattutto sbagliata nelle premesse perché, spiega l'autore, questo messaggio toglie soprattutto ai giovani la migliore assicurazione sociale contro la disoccupazione di cui oggi possano disporre. Poi l'autore esamina le ragioni del successo dei populisti, basato soprattutto sull'avanzata degli immigrati, che per Boeri va considerata nelle sue potenzialità anche positive, e si conclude con la terapia che, secondo Boeri stesso, dovrebbe contribuire a rimuovere quelle iniquità che trasmettono all'opinione pubblica l'immagine di una classe dirigente corrotta che pensa esclusivamente ai propri interessi. Insomma, aggiunge Boeri, bisogna dimostrare nei fatti che le regole dello Stato sociale si applicano anche a chi ha posizioni di potere, e poi bisogna rispondere in modo convincente alla richiesta di protezione. Una terapia per la quale l'Europa potrebbe giocare un ruolo veramente essenziale. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di quadri e di opere d'arte, soprattutto di opere d'arte italiane che oggi impreziosiscono i musei e le raccolte di tutto il mondo. Il giornalista Fabio Isman ricostruisce i movimenti di queste dolorose migrazioni nel libro L'Italia dell'arte venduta, collezioni disperse, capolavori fuggiti, pubblicato dal Mulino, 274 pagine, 16 euro. È un libro questo che a sua volta rappresenta un museo, per così dire, virtuale, pieno dei capolavori che ci siamo lasciati scappare e che dunque l'autore definisce il museo della cattiva coscienza. I dati effettivamente sono impressionanti. Pensate per esempio che in Italia ci sono solo 4 tra i 20 quadri dipinti da Antonello da Messina nell'anno trascorso a Venezia, un periodo che fu decisivo per lo sviluppo dell'arte di Antonello, ma soprattutto per la definizione dell'arte rinascimentale. Inoltre, forse tutte le grandi collezioni che si erano costituite nei secoli sono state in tutto o in parte disperse, e qui troviamo la storia dei casi più eclatanti di queste dispersioni, di queste emigrazioni di opere d'arte, casi dovuti spesso motivazioni improbabili. La famiglia Colonna, per esempio, dovrà vendere parte della favolosa raccolta che custodiva nei propri palazzi per aderire all'invito di Pio VI di fornire un reggimento di cavalleria, uno di fanteria e 12 cannoni di bronzo. Dopo l'accenno a Caravaggio parliamo di un altro gigante, Leonardo da Vinci, che troviamo nell'ultimo titolo di una coppia affiatata, sono marito e moglie, di enorme successo in tutto il mondo, ora finalmente pubblicate anche in Italia, sono Monaldi e Sorti, questo è il nome della ditta, della coppia, Rita Monaldi e Francesco Sorti, che presentano ora una trilogia dedicata a Salai, il figlio adottivo e allievo di Leonardo. Appunto, il libro, questo primo libro, si intitola I dubbi di Salai, seguiranno L'uovo di Salai e La riforma di Salai, pubblicato da Boldini e Castoldi, 392 pagine, 22 euro. Moraldi e Sorti hanno dato vita a un nuovo genere, il giallo storico-satirico, supportato da una minaziosa ricerca storica di cui anche qui dà conto l'appendice, la quale spiega che il riferimento a uno scartafaccio dello stesso Salahi che sarebbe stato scoperto vicino Milano e di cui il libro sarebbe la trasposizione è solo un espediente, ma che le notizie su Leonardo e su Salahi sono tutte rigorosamente autentiche. Il giallo, di ambientazione medievale o rinascimentale, è ormai un genere affermato, ma con toni trash, scrivono gli autori, che non amano molto appunto questo genere. E allora spiegano, lo sforzo è stato appunto quello di sciogliere Leonardo, come scrivono, dalle vecchie gabbie: da una parte la melensa glorificazione della storiografia ufficiale, dall'altra il pantano della disinformazione kitsch. Per cui non importa, spiegano, se le lettere del figlioccio di Leonardo non sono mai state scoperte, l'essenziale era ricreare il palcoscenico e lo spirito che vi aleggiava, come fanno in questo libro, in cui troviamo appunto uno scambio epistolare di Salahi, il quale accompagna a Roma Leonardo. Ufficialmente l'artista si è recato lì per studiare le antichità romane, in realtà è per una missione coperta che riguarda il pontefice Alessandro VI, e a sua volta Salahi dovrà tenere sotto controllo il patrigno che le autorità fiorentine sospettano di avere una qualche parte in una cospirazione contro la città. Facciamo un salto di qualche secolo e troviamo un grande artista del Settecento che ha molto influenzato la cultura europea, Giovan Battista Piranesi, il più noto incisore di tutti i tempi, oggetto di uno studio del giornalista Pierluigi Panza, che ha ricostruito l'intero corpus delle opere piranesiane in un volume che è a sua volta un museo virtuale. Si intitola Museo di Piranesi, Schirà, 580 pagine, molto ricche di illustrazioni, ovviamente 45 euro. Questo è uno strumento molto importante che, come spiega l'autore, unisce ragione e sentimento. In realtà il libro parla di un museo che esisteva, era il museo che aveva sede nelle sei stanze di Palazzo Tomati a Roma, abitato appunto da Piranesi, un museo fatto di pezzi di marmo che l'artista aveva raccolto ma che occasionalmente vendeva senza però rinunciare al museo stesso. E appunto di quei pezzi viene ricostruita qui la storia e l'attuale collocazione. Sono 270 opere sparpagliate in 43 sedi, la maggior parte dei quali a Stoccolma, al British Museum e ai Musei Vaticani. Ancora un salto di qualche secolo e veniamo al Novecento milanese, che si sviluppò intorno al sistema delle gallerie, un sistema che viene ricostruito nel libro di Angela Madesani, Le intelligenze dell'arte, gallerie e galleristi a Milano 1876-1950, pubblicato da Nomos Edizioni, 246 pagine, 18 euro. Il libro ricostruisce il vivacissimo clima culturale di Milano a partire dalla fondazione nel 1869 dell'esposizione permanente di Belle Arti, alla quale poi seguì la famiglia artistica milanese, che furono due iniziative molto importanti perché segnarono l'inizio di un'attività che avrebbe poi avuto un grande successo di presentazione e diffusione dell'arte contemporanea. E questo contribuì a fare di Milano un centro molto dinamico, non solo della produzione ma anche del mercato dell'arte, di cui fu la prima espressione appunto nel 1876 la Galleria dei Fratelli Grubissi. Sarà poi un susseguirsi di iniziative che vengono appunto ricostruite in questo libro, che esploderanno nel secondo dopoguerra con alcune gallerie che diventarono storiche e contribuirono a un'animazione che si trasmetteva in molte altre sedi di tutt'altro genere, ma ugualmente coinvolte nello sviluppo e nella diffusione della vivacità artistica di quegli anni, come spiegano queste righe che vi propongo. In questo dopoguerra, tra gli anni 40 e 50, i luoghi di ritrovo ed espositivi stanno mutando rispetto al passato. Ai tradizionali spazi deputati delle gallerie se ne vanno aggiungendo di nuovi, destinati a diventare poli nevralgici del mondo artistico milanese e non solo. Si pensi al Giamaica, a Oreste, alla latteria trattoria delle sorelle Pirovini, al Soldato d'Italia. Si diffonde la consuetudine di esporre in alcuni bar come il Tondelli in Piazza Oberdan, il Bar Biffi in Galleria Vittorio Emanuele e sempre in galleria la pasticceria Campari. La pasticceria Zucca organizza un premio intitolato appunto Premio Zucca. Milano, come scrive Fontana nel 1947, è davvero un immenso cantiere in costruzione. Si espone anche in alcuni ristoranti, da Giannino, al Bagutta, alla Taverna Cesari, alla Taverna del Gatto Nero. All'angolo fra via Fiorichiari e via Brera 23 è il Bar Brera o caffè della Sciura Titta, la signora Titta. È un punto di ritrovo dei giornalisti del vicino Corriere della Sera, ma è anche il luogo frequentato da artisti e studenti dell'Accademia. A un tavolo d'angolo può capitare di trovare Paolo Grassi e Giorgio Streller che discutono di vicende teatrali con Ruggero Jacobbi e Vito Pandolfi. La Titta diventa ritrovo anche di gente del cinema. Nel bar si incontrano i giovani pittori realisti, da Cassinari a Morlotti, da Peverelli a Dova, Treccani, Birolli. Nei primi 2-3 anni dopo la fine della guerra, il cuore delle loro discussioni è soprattutto Picasso, la cui scoperta è determinante, soprattutto il Picasso di Guernica. E a proposito di Guernica, segnalo il libro di un esperto di politica internazionale, Luigi Bonanate, che ha scritto La vittoria di Guernica, pubblicato da Aragno, 226 pagine, 25 euro. Questo è il libro che inquadra il capolavoro di Picasso nel contesto politico e storico nel quale esso nacque. In origine, come sapete, ci fu il bombardamento avvenuto 80 anni fa, nell'aprile del 1937, di Guernica, la cittadina basca che fu colpita nel pieno della guerra civile. Questi due aspetti, il bombardamento e la distruzione di Guernica e il quadro che venne ispirato a Picasso, sono due avvenimenti capitali che segnano certamente il secolo. Guernica, spiega l'autore, segna una svolta nella storia della pittura, ma anche il bombardamento in sé fu un elemento epocale, perché la guerra civile ha acquistato negli anni più recenti una complessità e una centralità che la rendono oggetto di particolare interesse e importanza. Ed entrambe le prospettive, aggiunge l'autore, hanno a che fare con la teoria democratica, che è la dimensione politica di ciò che fu frustrato e sconfitto nella guerra di Spagna, cioè la volontà popolare, e che sta impallidendo e disarticolandosi nella crisi attuale dell'ordine internazionale, eroso e continuamente eroso dalle guerre civili, Siria, Libia, Yemen, Iraq, Kurdistan, eccetera. Quindi, se è ovvio che la guerra possa avere una fortissima influenza sulla pittura, Bonanate conclude che anche la pittura può incidere significativamente sul giudizio pubblico sulla guerra. E Guernica, appunto, il quadro, è uno degli esempi più significativi da questo punto di vista. Infine veniamo all'oggi con un'insolita guida siciliana che ci presenta le più interessanti testimonianze di street art nella regione, un libro di Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tutolomondo, che si intitola Street Art in Sicilia, guida ai luoghi e le opere, pubblicato da Flaccovio, 20 euro, 256 pagine, che rappresenta una testimonianza completa, molto documentata anche con le immagini, sorprendente della creatività diffusa non soltanto nelle città maggiori, a Palermo, Catania, ma in tutta l'isola, dove spesso la street art, scrivono gli autori, diventa strumento per coinvolgere la comunità. E quelle raccontate, aggiungono, sono anche spesso storie di ritorni, di giovani che hanno intrapreso i propri percorsi di studi fuori dalla Sicilia e sono tornati nelle proprie realtà per costruire nuovi modi di vivere il territorio, e invitando gli street artist a collaborare in questo processo. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Paolo Colleone in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni.